destino. Queste di Berenice son le soglie crudeli. Io voglio ora trucidar l'inumana. Non desperino quel colpo fatal, ripare scampo. Qui da folti custodi è ristretto ogni passo. A gran delitti allora la sorte ammiratrice ride. Con inutile prova di valor disperato te stesso perdi e non riacquisti il figlio. A me lascia il pensier di seguir ciò che brami. Io già disposi Gina di assecondarmi, disporrò in breve Aquilio. Ammira il tuo generoso e magnanimo ardimento, accompagni, non voglio il gran cimento.